Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, ma naturalmente potete ascoltarci anche tramite il web scaricando gratuitamente l'apposita app dal nostro sito radiocittafujiko.it, naturalmente senza accento, e ultimamente per le zone limitrofe, le province limitrofe Bologna, anche in DAB, che è un mezzo tecnico che ci dà questa opportunità. E come sempre, quasi ogni mercoledì alle 10.30 parte Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica live di ogni epoca e di quasi tutti i generi. Ma immancabile come sempre, con l'arrivo della brutta stagione, il mio apparato respiratorio ne risente ed è abbastanza deficitario anche oggi, come sentite, ma lo sarà probabilmente fino a marzo, ad aprile o a volte anche in maggio. Quindi mi scuso per questa voce un po' così chiusa, diciamo, e però quello che importa è sicuramente la musica. Ma se ogni tanto sentirete qualche colpo di tosse o una mia fuoriuscita dal microfono improvvisa, sapete sicuramente di cosa si tratta. Ma malgrado raffreddori vari, anche oggi abbiamo una novità con cui aprire la trasmissione, e oggi è una signora novità, vi assicuro, una delle sorprese di questo anno di grazia 2025, una band fantastica, veramente è stato a mio avviso una sorpresa. Hanno già fatto diversi album in studio, 4 per la precisione, e questo è il loro primo live, si chiama Sunshine Live in 2024. E la band, una band canadese che arriva da Toronto, si chiama Bywater Call. È una super band, sono 7 elementi con fiati e un chitarrista eccezionale, e sono attivi a Toronto, appunto in Canada, dal 2019, e il loro è un misto di rhythm and blues, soul rock. Molti critici l'hanno paragonati alla tedesca Trucks Band, e direi una volta tanto i critici hanno ragione. E hanno una grande cantante, una ragazza che si chiama Megan Parnell, che ha una voce molto molto bella e molto simile a quella di Susan Tedeschi. Purtroppo questo album è corto, è proprio quello che sarebbe stato un long plane, ed è un vero peccato, perché potevano, per meglio dire, sfruttare al meglio tutte le possibilità del CD, arrivando fino a 79-78 minuti. Sono 6 canzoni registrate un po' in giro fra Stati Uniti e Canada, ma principalmente le ultime sono registrate a casa loro, appunto a Rivoli di Toronto, il 19 e 20 settembre, 20 dicembre, scusate, del 2024, quindi praticamente meno di un anno fa. E niente, che dire, è stata, come vi dicevo, un'autentica sorpresa. Sono bravissimi, ce ne andiamo ad ascoltare. Il brano è quello che conclude questo mini album, io lo chiamo, si chiama Everybody Knows. Loro invece si chiamano Baywater Call. Everybody knows. appuntatevi questo nome, si chiamano Bywater Call, Bywater Call, naturalmente come acqua. E l'album si chiama Sunshine Live in 2024, album veramente notevolissimo per quel che mi riguarda. Il brano che ci siamo ascoltati è l'ultimo dei sei che compongono questo mini album, lo ripeto, ed è stato registrato a Rivoli di Toronto, Canada, nel dicembre dello scorso anno. Toronto è una città molto molto interessante, come molti di voi sapranno è la capitale dell'Ontario, uno degli stati, delle province per meglio dire, che compongono il Canada. E fra l'altro è la quarta città più popolosa di tutto il Nord America, compreso anche gli Stati Uniti, con più di 2,8 milioni di abitanti. Sto parlando di quello che chiamiamo lo centro all'italiana, della città vera e propria. È una città molto molto cosmopolita, molto multiculturale, ed è una città molto molto musicale. E, per cui ci andiamo ad ascoltare in questa prima parte della trasmissione registrazioni effettuate in questa città che è sita al nord del lago Ontario, mentre al sud c'è lo stato di New York americano, nordamericano, statunitense, diciamo. E come al solito con molto piacere che vado ad iniziare con una band italiana, una band che sicuramente è stata la più famosa band italiana in giro per il mondo. Scusate queste continue sparizioni della mia voce, ma come vi dicevo, il mio apparato non è che vada per la maggiore, il mio apparato vocale. E loro si chiamano PFM, premiata Forneria Marconi, si chiamano tuttora così. Hanno avuto un periodo nell'inizio degli anni 70, a metà degli anni 70, in cui andarono alla conquista dell'America. E hanno avuto buon successo e sono rimasti anche fra parentesi nel cuore di molti ragazzi americani. L'album che ci andiamo ad ascoltare è uscito originariamente nel novembre del 74 e si chiama in italiano Live in USA. In inglese invece c'era anche la versione inglese, perché la PFM incideva per la Manticore, la casa discografica di Emerson, Lake & Palmer. In inglese si chiamava PFM Cook. E poi è stato ripubblicato in una versione in 3 CD con un bel box nel 2011. Il primo, però, con la versione originale, una parte è stata registrata alla Convocation Hall dell'Università di Toronto il 22 agosto del 1974. Ce l'andiamo ad ascoltare, e il brano che ho scelto per voi ce lo presenta lo stesso Mauro Pagani. Thank you. Grazie. I'm gonna play a song called Falls in the Ground. Thank you, grazie. We'll be right back. Sometimes it seems that what remains of truth and rebellion is wine shared with friends, sunset music, words are ancient statues. Stars are touching our hearts, so it runs to love you. Butterfly, I'm just so unstoppable. The food of God, my twisted eating, and if you fall in, baby, crystal bowls are locked. Wow. Lo so, lo stacco è stato veramente notevole, ma volevo rimanere al di fuori del solito ambito anglo-americano. E dopo gli italiani PFM sono arrivati i tedeschi Mouse on Mars, un duo da Düsseldorf, appunto in Germania, attivo dal 1993. Hanno fatto un solo album live, che è quello che ci siamo ascoltati, si chiama Live All Four. È stato registrato all'Lee's Palace di Toronto il 27 ottobre del 2004. E il brano in particolare che ci siamo ascoltati si chiama Destroyer, loro invece Mouse on Mars. Damn, my hand and my heart, still all over the place. Nel 1977 i Rolling Stones pubblicarono un doppio long play dal vivo, si chiama tuttora Love You Live, del quale la terza facciata, stiamo parlando di doppio vinile, era registrata in un piccolo locale di Toronto, il Mocambo. Nel marzo del 2022 è stato pubblicato l'intero show. Era uno show fatto per i vincitori di un contest fatto dal Rolling Stones Fan Club canadese. Sono 300 persone al Mocambo, per cui i fortunati videro i Rolling Stones come supporto degli April Wine, che è un gruppo canadese. Quindi un tête à tête veramente notevole con la band di Mick Jagger e Keith Richards. Il tutto è stato registrato il 4 e il 5 marzo del 1977 e il brano che ci siamo ascoltati spero non abbia bisogno di presentazioni, perché è il motivo per cui siamo tutti qua. It's only rock and roll, but I like it. Io oserei cambiarlo in I Love It, ma questo è tutto un altro discorso. Andiamo avanti, sempre registrazione effettuata in quel di Toronto, e qui abbiamo un gruppo britannico, praticamente sono tutti gruppi britannici quelli che ci ascolteremo, non molto conosciuto dalle nostre parti, ma che ha avuto qualche successo negli anni 80 soprattutto. Difatti sentirete la musica è molto anni 80. Loro arrivarono da Middleton, che è un sobborgo di Manchester, e sono attivi dal 1981, ma hanno avuto diverse interruzioni. Hanno fatto diversi album live, questo si chiama semplicemente Live in Toronto, è stato registrato all'RPM Club il 5 marzo del 1987. Il brano è uno dei loro brani di punta, si chiama Singing Rule Britannia, però viene annunciato dal cantante dei Chameleons, questa è la band della quale stiamo parlando, con un altro titolo. Non so bene chi abbia ragione dei due, se la copertina del CD o il cantante, comunque noi la chiamiamo Singing Rule Britannia, Chameleons. The Singing Rule Britannia, while the walls close in. Oh, so the star is there, but I don't stand in line. Sempre molto riconoscibile la voce di Bono. Siamo all'Air Canada Center a Toronto, naturalmente, il 6 luglio del 2015. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Invisible e arriva da un doppio CD che si chiama Live Songs of Innocence Plus Experience, che veniva dato in omaggio a coloro che si iscrivevano al sito youtube.com nel 2019. tutti gli anni questo sito, che è il sito naturalmente ufficiale degli U2, omaggia chi si iscrive con o un album o, come in questo caso, un libro di fotografie, come nel caso di quest'anno, scusate, un libro di fotografie. Sono uscite tutte cose molto interessanti dal punto di vista musicale, tutte inedite, cioè non sono poi sul mercato, e anche questo Live Songs of Innocent Plus Experience non è da meno. Invisible, il brano che ci siamo ascoltati da U2. È un personaggio molto particolare nel campo della musica rock britannica, ma lo conoscete, si chiama Robert Fripp. Lui è, dopo il primo album, è praticamente diventato il leader dei King Crimson, che ha sciolto e riformato chissà quante volte, e anche nel 1980 sciolse King Crimson e fondò un gruppo insieme a Barry Andrews, l'ex tastierista degli XTC, e Sarah Lee, che è una bassista che ha poi suonato con la Gang of Four. A questo proposito, l'anticipazione, prendendo spunto da Sarah Lee, è che la prossima settimana parleremo di ragazzi che suonano il basso, ma questo sarà la prossima settimana. Adesso concentriamoci su questa band. Che è durata solamente dal marzo al dicembre del 1980, con un solo album in studio e un solo album ufficiale, che è questo, fra l'altro un official bootleg, con un titolo incredibile, Strang Strang Gosil Books o qualcosa del genere. L'album è stato registrato a Elmo Cambo a Toronto il 17 e 18 giugno del 1980. Il brano che ho scelto per voi si chiama Dislocated, la band, forse non l'ho detto, si chiama, anche se all'interno c'è una ragazza, si chiama League of Gentlemen. E dopo la complicata e intricata musica dei League of Gentlemen, praticamente uguale a quella di King Crimson, sono arrivati Supergrass con la loro musica più tranquilla, più orecchiabile, più normale, diciamo così. Supergrass da Oxford sono tuttora attivi dal 1993, con una piccola interruzione, fondati dai fratelli Combs, Gaz il cantante e chitarrista e Rob il tastierista. Il loro secondo album, It In For The Money, è stato pubblicato nel 97 come CD, ma è stato ripubblicato nel 2021, in agosto, in formato 3 CD, nel quale il terzo comprende un sacco di brani registrati dal vivo, fra cui questo che si chiama Going Out, che è stato registrato all'Opera House di Toronto l'11 settembre del 1995. Rimangono fuori tantissime cose, cito solamente King Crimson, gli Yes e gli Who, scusate se poco, ma il tempo come sempre è tiranno e quindi è ora di chiudere questa prima parte della trasmissione con la doverosa pubblicità. She said, I'm better than your kind, heading down the southern line for a brighter day. Oh, yeah. Oh, sure, what you find? Now she's spending all her time, living in a daydream underneath the highway. But she's still searching for miracles out in the sun. He tried to tape us under nine on the sly, always looking for a skirt. Hey. Got a house down by the beach, got him rich, got the pretty young things alone, yeah. Now the wife and kids are gone, and the ladies don't want none. He's crying out in Ocean Gate, dreaming of his home. But he's still searching for miracles. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo il 22 ottobre 2025, seconda parte che è iniziata con la splendida novità che vi propongo quest'oggi. La band si chiama Bywater Call, vengono da Toronto, Canada, e hanno pubblicato questo album che si chiama Sunshine Live in 2024. A dire il vero, Megan Parnell, la cantante della band, dice Sunshine, ma questo è un altro discorso. Grande grande album, come ho già detto in precedenza, consigliatissimo, registrato qua e là per fra gli Stati Uniti e il Canada. Questo in particolare si chiama appunto Sunshine, il title track, è stato registrato all'Arlington Arts di Newbury in Gran Bretagna, addirittura, no, scusate, questa mi era scappata, ed è stato registrato il 26 ottobre dello scorso anno. Un album consigliatissimo, veramente è stata una sorpresa notevolissima questa dei Bywater Call. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso degli anni, nel passare degli anni, appunto, tantissime cose anche oggi, siamo come dicevo al 22 ottobre e quindi come sempre il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Iniziamo dal 1977. Se vi dico Declan Patrick McManus, voi direte chi? Ma se vi dico invece Elvis Costello, sicuramente almeno l'avrete sentito nominare. Il suo secondo album si chiama This Year's Model, è stato pubblicato nel marzo del 1978, ma 30 anni dopo è stata pubblicata una deluxe edition, che è quella che ci andremo ad ascoltare, in due CD, fra i quali il secondo con un sacco di registrazioni dal vivo. E poi ne sono state fatte ancora, cioè Elvis Costello ha una serie di ripubblicazioni veramente incredibile, doppioni fra parentesi, di questo This Year's Model ne sono uscite diverse versioni. Questa versione ha, come dicevo, il secondo CD con un sacco di cose live, fra cui questa che è stata registrata all'University of Leicester il 22 ottobre del 1977, ed è una cover di un gruppo punk che si chiama tuttora Damned, ed è il loro primo singolo, si chiama Net Net Net, a significare ancora una volta l'ecletticità del buon Elvis Costello. Il tutto, come dicevo, dal 1977. This is dedicated to Chris Miller. Mr. Man, Se ricordo bene, questa Nit fu dei Damned, fu ufficialmente il primo singolo punk mai pubblicato, se ricordo bene. Questa comunque era la versione di Elvis Costello all'Università di Leicester il 22 ottobre del 1977, contenuto nella deluxe edition di questo This Year's Model, che è sempre un gran bell'album. Elvis Costello dopo ha fatto un po' di tutto, è un tizio molto molto eclettico, e già allora lo dimostrava con questa cover che era un po' al di fuori di quelle che erano le sue usuali canzoni. Una band, più che una band, direi un culto, soprattutto negli Stati Uniti. Si chiamavano Grateful Dead, venivano da Palo Alto, California, sono stati attivi dal 1965 al 1995, l'anno della morte del loro leader Jerry Garcia. È un mito, veramente un mito. Ho un paio di amici che abitano a Phoenix in Arizona, sono dei deadheads veramente convintissimi. Hanno fatto, chi per loro o chi per loro, prima o dopo la fine della band, hanno fatto centinaia, non sto scherzando, centinaia di ridischi dal vivo, di album live. È impossibile assolutamente riuscire ad averli tutti, ci vorrebbe un bel conto in banca, perché fanno fra l'altro a cofanetti da 30 album, insomma cose veramente incredibili. Però nel 1981 pubblicarono quasi in simultanea due album, due long play doppi. Il primo si chiama Dead Set, ma quello che interessa a noi si chiama Recording. Tutti e due furono registrati alla Radio City Hall di New York City il 22 ottobre del 1990 purtroppo, diciamo per ragioni di tempo, devo forzatamente scegliere questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che non è male, sono sempre i Grateful Dead, ma loro si estrinsecavano meglio con lunghe suite, con lunghe improvvisazioni. Questo invece dura solamente 3 minuti e 15 secondi, si chiama On the Road Again, Grateful Dead, 22 ottobre 1990. Looking for his hat, yes. Wants to know where's your husband's at. Completamente acustico questo recording, l'album dal quale ci siamo ascoltati, Grateful Dead, registrati live al Radio City Hall, Music Hall di New York City, durante una serie di 8 concerti in quella che è la sala al coperto, il teatro al coperto più grande del mondo, almeno lo era, adesso non so se lo è ancora. On the Road Again, il brano che ci siamo ascoltati, Grateful Dead, grandissima, grandissima, grandissima band. A questo punto chiedo umilmente scusa se parlo un attimo di me, nel senso che negli anni 90, insieme a un paio di amici, fondai una società che appunto si chiamava Soul and Jazz Society. Con questa society organizzammo dei concerti, pubblicammo una fanzine sulla quale scriveva anche il nostro presidente Alfredo Pasquali e pubblicammo anche 2 album, anzi uno a dire il vero. Il secondo, che è quello che ci andremo ad ascoltare, era invece dato in omaggio a chi si abbonava alla fanzine, per cui al magazine, per cui non è sul mercato. E organizzammo anche una settimana di concerti a Ruvido qui a Bologna, non so se ve lo ricordate, in via di Roncrio. E questo album, che si chiama semplicemente Live in Bologna Volume 1, non cercatelo, non c'è mai stato un volume 2 e comprende alcune registrazioni effettuate in quella situazione. Il secondo disco del quale vi dicevo, il secondo CD, era ad appannaggio, un live registrato sempre a Ruvido, appannaggio di David Hudson, grandissimo cantante ma ingestibile dal punto di vista umano. Comunque anche lui partecipò a questa kermesse e insieme alla Michael Allen Band fece un concerto veramente strepitoso comprendeva questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che è un classico di All Green, si chiama Love and Happiness, David Hudson and Michael Allen Band. Let's go to the voice of David Hudson. Love and happiness, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah, something that can make you do right. Also can make you do wrong. Woo! In the morning, yeah, she's talking about make it right, yes. Yeah, happiness is a wind. You can really feel good about somebody. There's nothing wrong. I'm making love with someone, no. Yeah, yeah, oh baby. Side by side, now when we see each other, we're gonna walk away with victory, yes. Walk on away with victory, yeah. Love and the happiness, hey there. Love and the happiness, oh. you feel in Chi-Town? Thank you. una delle mie band preferite, ma chi segue le mie trasmissioni lo sa. Si chiamano Goff Mule, iniziarono nel 1994, Warren Haynes e Alan Woody, due della Allman Brothers Band, nel tempo libero dalla band principale fondarono questi Goff Mule. Hanno fatto un sacco di album dal vivo, molti dei quali sono reperibili solamente sul loro sito web. Questo invece è un album ufficiale, si chiama Deja Voodoo Special European 2 CD, perché appunto è una versione speciale di questo Deja Voodoo che è stato pubblicato nel 2005 e che contiene un secondo dischetto registrato dal vivo a Riviera Theater di Chicago il 22 ottobre del 2004. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Slack Joe Jezebel ed è il brano di apertura di questo dischetto che non esito a definire magnifico. Dal 2004 saltiamo direttamente al 2019 insieme a una cantante chitarrista australiana, si chiama Courtney Barnett. E lei ha iniziato la carriera nel 2010 in diverse band, poi il suo primo album solista è stato nel 2015. Ha fatto due album dal vivo, uno dei quali è quello che ci andiamo ad ascoltare, si chiama MTV Unplugged Live in Melbourne, e praticamente ha già detto tutto, tranne che è stato registrato in un locale che si chiama Owners a Browns Beach, che è un sobborgo di Melbourne, il 22 ottobre del 2019. Se vi interessa, era un martedì. Il brano che ho scelto per voi si chiama Not Only, lei invece si chiama Cathy Barnett, dal 2019. When I was a child I used to say only I love, only I want everything that I see. Growing up was like waking from the deepest sleep. What I found was in a dream. Nothing was what it seemed. I want Alan Williams. Thanks, Courtney. Thanks, guys. E questa era Courtney Barnett in compagnia di Marlon Williams, un duetto su questa, non duetto, un accompagnamento per meglio dire, di Marlon Williams su questa Not Only, contenuta in MTV Unplugged Live in Melbourne, album naturalmente della serie MTV Unplugged, che mi pare non sia più attiva ormai da diverso tempo. E Courtney Barnett, come vi dicevo, da Sydney, Australia, il tutto registrato all'Howlers di Brunswick, un sobborgo di Melbourne, il 22 ottobre del 2019. Not Only, il titolo del brano. E se negli ultimi anni, anzi negli ultimi due anni, uno dei fulcri musicali in Gran Bretagna è stata la reunion degli Oasis, noi invece abbiamo avuto quella di CCCP, Fedeli alla Linea. E come sapete fu organizzata una mostra che si chiamava Felicitazioni CCP Fedeli alla Linea 1984-2024. Nell'ambito di questa mostra, nell'ambito delle manifestazioni collaterali, ci fu un concerto dei CCCP, Fedeli alla Linea naturalmente, al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia il 21 e il 22 ottobre del 2023. E da lì ci hanno preso gusto, hanno continuato la riunione con una serie di concerti e un paio di tour che hanno portato in giro per l'Italia. CCP Fedeli alla Linea, lo sapete meglio di me, sono di Reggio Emilia, anche se poi in realtà si sono formati a Berlino. E vediamo adesso cosa succede. Già si parla di una reunion dei CSI, ma staremo attenti. Questo è l'ultimo brano. Prima di tutto però voglio ricordarvi che siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un po' disastrata nella voce del presentatore, che posso essere io, Nevio, e tutto naturalmente dai 103.1 MHz modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia appunto dei ragazzi di Reggio Emilia e il brano che ho scelto per voi, sempre per problemi di tempo, si chiama Stati di Agitazione, CCCP. Ciao a tutti da Nevio. Occhi infossati lucidi, noie con il respiro, mi si